Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Oggi siamo ritornati al classico studio di Milano, via Monterosa, dopo la gita a Parco Valentino, a Torino, al Salone dell'Auto ieri. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzani in redazione, tutto a posto. Pardo sta telefonicamente arrivando, ieri era vicino a me. Saluto subito Ciccio Graziari, ciao Ciccio. Ciao Carlo, eccomi qua. Sai chi ci ha chiamato ieri in diretta, che ci ascolta sempre, eh? Sì. Bocelli, ah, è un nostro grandissimo ascoltatore. Pardo, grande Andrea, sai cosa ha detto? Pardo ha detto: sono emozionato come Vespa quando gli ha telefonato il Papa. Un po' ti devo dire anch'io, perché insomma lo salutiamo Andrea Bocelli, se ci sta ascoltando, e ci sta ascoltando, e lo invitiamo tutte le volte che vuole. Un grandissimo abbraccio. Uno di noi. Certo. Senti Ciccio, vale la pena di spendere parole per questo 3-0 dell'Italia sull'Uruguay? Carlo, senza montarci la testa, abbiamo fatto una buonissima partita, tra l'altro posso dirti una cosa personale? Sì. Io la prima partita della nazionale che vidi in vita mia da bambino a San Siro, sì, Italia-Uruguay 1-0, gol di testa di Ciccio Graziani, è vero. E mi marcava un certo De Leon, un difensore centrale, che ti dico, aveva le unghie come quelle di una donna, incredibile. Lui non marcava, graffiava, era una cosa incredibile. Comunque, su questa Italia-Uruguay 3-0, tra l'altro un Uruguay senza stelle, hanno giocato Donnarumma e Belotti, che insomma i milanisti sperano possano giocare insieme l'anno prossimo. Io la vedo piuttosto dura, però il Milan ci sta provando. Ha offerto 40 milioni più Kučka e Niang, offerta respinta al mittente, per 60 si potrebbe fare, però insomma una storia lunga. Certo, sono due destinati ad essere nazionale del futuro, Ciccio. Beh, no, ma non c'è dubbio, Belotti lo è già, Donnarumma lo diventerà, Donnarumma diventerà forte quanto Buffon, se non di più, per quello che sta già dimostrando a questa età. Ed è un patrimonio che dobbiamo salvaguardare. L'unica cosa che non mi piace di Donnarumma, ma non tanto lui, vorrei fare un riferimento alla famiglia, sì, perché questo ragazzo tentenna a firmare a quelle cifre. Questo è uno degli argomenti del giorno. Ma io dico, Carlo, un pizzico di riconoscenza a questa famiglia, questo papà e questa mamma, da dire: ma guarda, che fai questo contratto al Milan per 4-5 anni, tanto poi se dimostrerai il tuo valore come sarà, tra 2-3 anni potresti andare comunque a vivere, ma è il ragionamento che facciamo tutti da fuori. Questo è un ragazzo che 2 anni fa non guadagnava 5.000 euro al mese, oggi dovrebbe guadagnare 350.000 euro al mese. È possibile che la famiglia non abbia un minimo di riconoscenza verso quella società e si faccia manipolare? Guarda, è quello che diciamo tu. No, ma sai, ieri si diceva anche che la famiglia ha un po' un nervo scoperto con il Milan, perché giocava lì anche il fratellino, che non è stato ritenuto all'altezza, è stato mandato in Grecia, poi c'è di mezzo Minoraiola. Però il ragionamento tuo non fa una grinza, ed è quello che penso anch'io, non so, gli ascoltatori 800 24 00 24, firma sto contratto, d'altra parte ti danno dei bei soldi, perché si parla di 4 milioni l'anno. Hai 18 anni, qualche mese, esatto, diventi il simbolo del nuovo Milan, ti vogliono bene tutti, giochi a casa tua un paio d'anni, poi il mondo è grande, il mondo è aperto, sei certo davvero un fenomeno come tu dici, vai al Real, al Manchester United, certo, dove ti coprono d'oro, vai dove vuoi, dopo aver detto grazie al Milan in questo modo, perché questo è un momento anche dal punto di vista, Ciccio, dell'immagine, delicato per il Milan. È una squadra che si sta ricostruendo, che mi sembra si stia impegnando per ricostruirsi, e sarebbe importante anche dal punto di vista mediatico e dell'immagine la permanenza di un simbolo come già Donnarumma. Certo, sono pienamente d'accordo con te. qui ci vuole il cuore, ci vuole la riconoscenza, ci vuole un affetto particolare, e questo i tifosi del Milan non se lo scorderanno mai. Però la famiglia deve indurre questo ragazzo a fare le cose per bene, perché io lascio perdere Mino Raiola, che non conosco persona per bene, ci mancherebbe altro, ma sia la famiglia deve essere riconoscente a questa società, che non più tardi di 4-5 anni fa è andato lì, l'ha preso, certo, li ha gratificati, certo. E quindi oggi certo. Donnarumma gratifichi anche il Milan, si faccia questo sforzo. Hai ragione. Senti, si è sparsa e si sta spargendo rapidamente la voce di Diego Costa, di cui poi parleremo, perché ha giocato ieri con la Spagna e poi ha detto una cosa molto importante, di Diego Costa al Milan. Tu che tipo di centravanti vedresti al Milan per il gioco di Montella? Ma Montella, per come sta giocando con questo 4-3-3, ci vuole un finalizzatore. Non è stato evidentemente valorizzato, ma anche lui ci ha messo del suo, perché non ha mai capito, non si è mai sacrificato nel modo giusto per entrare in quegli schemi. È un po' anarchico come tipologia di giocatore. A me Bacca piace, però qualche volta anche da parte sua ci deve essere non va bene, Bacca non va bene, Bacca non va bene per giocare quel tipo di calciatore un po' anarchico non va bene. Ecco, Belotti sarebbe il massimo, Diego Costa sarebbe straordinario, Aubameyang sarebbe un altro buon giocatore, ho detto poco, un ottimo calciatore, ci mancherebbe. Sì, problema, ci vuole un finalizzatore. Sai qual è il ciccio problema? Dannati inglesi, Diego Costa sai quanto guadagna? Lo so. 12 milioni di euro l'anno, ma come è possibile? Cioè, Higuain ne prende 7 poi... e mezzo, ma di che stiamo parlando? Carlo, noi a questa generazione di che stiamo parlando? Certo, gli auguriamo di guadagnare il triplo, ci mancherebbe, noi non siamo gelosi. Ma no, ma però chi se ne frega? Siamo arrivati, credo, al punto di non ritorno, perché anche le valutazioni, le clausole che mettono a questi ragazzi sono di un'esagerazione incredibile. Sì, con tutto ma anche arrivasse gratis dal Chelsea, Conte gli ha detto, poi lo sentiamo Diego Costa, gli ha mandato un sms dicendo guarda, non ci servi più, prenderanno Lukaku, che è un giocatore magari che vi ha dato al gioco di Conte. Però il problema è che se anche venisse via gratis dal Chelsea, 12 milioni l'anno, ma come fa un club italiano a darglieli? Volevo parlare con te, io sono d'accordo sul fatto che Belotti sarebbe perfetto per il Milan, sarebbe bellissimo, io credo, per i tifosi rossoneri vederlo insieme anche a Belotti, credo anche per Ventura, Donnarumma, credo anche per Ventura, insomma un'ossatura italiana. Ieri Ventura ha parlato anche del solito Balotelli, sentiamo cosa ha detto. Io credo che Balotelli non possa essere un numero, uno dei 23. Balotelli ha la capacità di essere un punto di riferimento, allora le porte sono aperte, ci mancherebbe altro. Ma se Balotelli è semplicemente uno che viene perché sa giocare a calcio e basta, credo che con tutto il passato di Balotelli ci sia delle verifiche da fare. O protagonista o niente. Ma questo io non lo trovo corretto, però questo discorso di Giampiero. No. Ti voglio bene, cioè, no, perché in nazionale intanto c'è molta concorrenza e trovi i giocatori altrettanto bravi. In questo momento Belotti e Immobile si fanno preferire. C'è Eder che è umile, sta lì e quando viene preso in considerazione ci mette sempre il massimo dell'impegno. Balotelli potrebbe rientrare in un'ottica nazionale, qualora dimostri con le capacità tecniche e con le capacità caratteriali di essere dentro quel progetto. Poi può giocare, può non giocare, in alcuni momenti può essere preferito ad altri, in altri momenti va in panchina perché gli altri si mostrano più bravi in virtù di quello che è. Sono d'accordo con te. Cioè io non capisco, cioè Balotelli noi lo portiamo in nazionale solo se può fare il titolare? Ragazzi, ma non è che parliamo di un... No, ma io sono d'accordo con te. Balotelli, se oggi la serie ci sta, Belotti, Immobile, Balotelli ed Eder, benissimo. Poi se la gioca, è chiaro che Balotelli si porta dietro il circo a tre piste mediatico, come ben sai, come era per Cassano. Senti, per chiudere, una roba rapida, sì. Di Francesco Roma stanno trattando, Spalletti Inter, ti piacciono queste due soluzioni? Mi piacciono tantissimo, mi dispiace per Luciano che va via da Roma, perché secondo me era l'allenatore ideale per quella città, per quella piazza, per quella società. Però non ci sono stati presupposti, si era rotto il rapporto, e quindi all'Inter io credo che avranno modo di vedere all'opera un allenatore importante, un allenatore serio, perché ha carattere, ha personalità. Io ho avuto modo di vederlo lavorare, Luciano, a Roma, e cura anche le virgole, i particolari, è pignolo. Per quella società credo che sia il massimo, e Walter, con cui lui ha già lavorato, ha capito subito che era l'allenatore giusto per ripartire. Sì. E Di Francesco, per quello che ha fatto a Sassuolo in questi anni, credo che meriti un grande club. Adesso cominciano le responsabilità, e sono contento anche perché lui poi c'è stato da calciatore, quindi certo, la piazza la conosce. Sai, l'unica cosa è che Luciano Spalletti avrebbe bisogno di un tuo vecchio amico che si chiama Lele Oriali, che non so se potrà lasciare la nazionale, però avrebbe bisogno. Ma Carlo, dimmi. Ma se l'Inter lo chiama, Lele ci va a piedi. Lo so, però sai, non è detto che la nazionale lo lasci andare via, perché mi sembra che Tavecchio abbia un po' chiuso le porte, sai. Ma con la nazionale un compromesso lo trova, ma ci mancherebbe. Lele muore, secondo me, dalla voglia di tornare all'Inter. Sarebbe un ritorno meraviglioso. Sarebbe fondamentale. E non sarebbe un problema il contratto che ha in essere con la federazione, perché la federazione sarebbe la prima a dirgli: Lele, vai pure, questo ma è il tuo sogno. Ma doppio ruolo, una soluzione si trova. Ciccio, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie forte. A te, Carlo, ciao, Ciccio. Un abbraccio a tutti. Ciao. 800 24 00 24, un sacco di temi di cui parlare oggi. Tra poco andiamo in Spagna, perché ieri hanno giocato anche i nostri futuri avversari, con un paio di papere di Reina che giocava in porta e che non so se sarà futuro portiere del Napoli. Poi parleremo di mercato, poi parleremo un sacco di cose, tra cui grandi appuntamenti di atletica, il momento dell'Inter, quando finisce la missione di Spalletti e di Sabatini in Cina, che stanno discutendo. Poi parleremo di Djokovic, che è in totale crisi, fuori da Roland Garros. Magari mi fermo, non capisco neanche io che cos'ho. Oddio, traffico. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Hola, Pierluigi Pardo, come va? Come va? Bene. Si stava meglio ieri a Torino, al Salone dell'Automobile, ma siamo ritornati nei nostri studi. Tra l'altro la gente ci può anche vedere, almeno a me, a te no, perché stai a Roma, no? No, Milano. Stai a Milano, io perdo i conti dei tuoi spostamenti come al solito. Comunque ci può vedere, mi può vedere, ci può ascoltare anche in video via... pagina Facebook di Radio 24 e sito di Radio 24. Comunque, al di là di questo, ho già parlato, ho già fatto un po' di chiacchiera con Ciccio Graziani. Ti voglio far sentire una voce di Diego Costa di ieri sera, dopo la partita della Spagna. Ci stiamo collegando anche con l'amico Ricci, Filippo Maria. Diego Costa dopo la partita. Mira, io voy a ser sincero, otro día mi recibí un mensaje del entrenador Conte, que no faço parte de seus planos, assim que agora mesmo não sou jogador de chance porque tenho um contrato, mas o treinador não me quer aí, então vou ter que sair, sim ou sim. Traduci Filippo Maria Ricci, che ha detto? Ciao. Buon pomeriggio, dice. Buon l'altro pomeriggio. Giorno ho ricevuto un messaggio, nemmeno una telefonata, SMS, un messaggio dell'allenatore Conte, sì. Che dice che non faccio parte dei suoi piani e quindi devo cercarmi una squadra. Mica male, eh? Se volete lo mettiamo nel contesto questa cosa, perché io ieri ero a Murcia, sì. e Diego Costa non ha giocato, sì. E quindi si è fermato proprio per dire questo. Poteva anche non fermarsi, dire, nessuno è, di solito i giocatori che non giocano in zona mista, già quelli che giocano passano correndo, figuriamoci quelli che non giocano, quindi aveva una gran voglia di rendere pubblico questo WhatsApp, questo SMS di Antonio. Come, hai capito? Via SMS. Che ti lasciano per sì. WhatsApp. Magari gli ha mandato anche il cuore, quello rotto, no? l'emoticon col il corazoncito rotto. Sì, sì, cioè, allora ci sarebbe il Milan interessato. Sai qual è il problema? Ne parlavo anche prima con Ciccio. Che il signor Diego Costa al Chelsea, metti che anche venga via gratis, contro non vuole più, riprende Lukaku, eccetera, becca 12 milioni di euro l'anno, ragazzi. Higuain, che è una cosa superstar. Lordi, ma sono tanti soldi per il campionato italiano, ma come fa? 6 milioni e mezzo, sì, però a zero. a 0, un finale a 6 milioni, magari poi risparmi, magari scendi a 5. Che devi fare, ragazzi? Lo so, però se vuoi un giocatore serio, un giocatore che segna, questo devi pagare ormai. Sì, no, ho capito. Cioè, ho se capito, pagano 46 però... milioni per un sedicenne, cioè finita. Sì, no? Sì, ho capito, ma non, questo per dire che non si fa gara con Vinicius l'Inghilterra, non si fa gara con l'Inghilterra. Senti Phil, eri a Murcia per questo Spagna-Colombia 2-2. Un 2-2 segnato da un doppio, da una doppia papperaccia di Reina. Sì, di Pepe. Lui in zona mista non l'ho visto invece, non è passato. ha ricevuto anche lui un SMS. Sì. E niente, serata sfortunata per il portiere del Napoli. Sì, non è stato nel primo gol non è tutta colpa sua. Spiliqueta pure, sembra che gli dica qualcosa, lui si ferma, non, insomma, c'è un lost in translation abbastanza evidente, però niente, insomma, quindi lì è andata. E il secondo, sì, un bellissimo calcio d'angolo di James che Falcao che non segnava in nazionale solo da 2 anni. Veramente una cosa impressionante, sinceramente devo essere onesto, non mi ero reso conto di questo digiuno biblico. E una bella partita però, molto intensa, si sono anche un po' menati, insomma interessante, stadio pieno, un bel amichevole. Sì. Io non so se lo confermerai Reina al Napoli con ambizioni, insomma, non lo so. Sono valutazioni che stanno facendo. Per me resta un grande portiere. Gli errori ha sempre fatto, ogni tanto un errore lo fa, però resta un grande portiere, grande carisma, grande personalità, grande uomo di spogliatoio. Certo. Non lo so, io quest'anno tu ovviamente segui la Liga, segui anche il nostro campionato, saranno affascinanti, Sì, ecco, quello se forse mi manca. Che Reina sia un grande portiere e direi anche una grande personalità di calcio, questo è indiscutibile. Che Reina abbia abbracciato la napoletanità in maniera convinta. No, è vero, guarda, non è un dettaglio, fai bene. Napoli, assolutamente. Viene richiesto un certo tipo di amore per la città, un certo tipo di adesione che va oltre l'aspetto strettamente tecnico. E Reina questo ce l'ha sempre avuto. In campo e su Twitter, tante volte è uno sicuramente molto legato all'ambiente, non ci sono tutti, sì. però insomma, il Napoli, sai, è stato il discorso, sono squadre quasi perfette, se devi migliorare, è una riflessione da fare, è proprio la priorità numero uno. Potrebbero prendere Casillas che vuole venire in Italia. Vabbè. un altro portiere fresco, un altro fresco. Senti, Filippo, la settimana dei vincitori Real Madrid coincide peraltro con le elezioni presidenziali al Real. Sì. Che succede? C'è grande battaglia, c'è una battaglia. Ci sono milioni di candidati. Milioni di candidati. Cioè, c'è solo lui, non c'è nessun altro, perché per presentarti alle elezioni ci vuole una fideiussione diciamo superiore ai 100 milioni di euro, sì. Quindi già questo è difficile. In più, se uno viene dall'aver vinto nel suo ultimo mandato 4 anni, ha vinto 3 Champions, vale a dire qualcosa, come si dice, no? Pier, vuoi candidarti? Non ci sarà nessun candidato, secondo me. Adesso stiamo aspettando. Da oggi si avvia il processo elettorale. Uh-huh. Le candidature vanno presentate la prossima settimana. Secondo me nessuno si presenterà. Pardo non può perché non è socio da 25 anni. Ma arrivo. Un dettaglio. Arrivi? Momento all'Ambrosini. Scena fantoziana. Che succede? Mi ha il telefono per capedine devo... Ne fai tutti con quel telefono, ne fai tutti i colori. Pardo, è una cosa impressionante. Ma che giuro, ma sono piccole cose, grazie a Dio. Tipo Cartugo, per un quarto d'ora non funzionava. Applicazione entra, esci. Sei bestia, tanto ti sento male. Sento perfettamente Filippo Valerici dalla Spagna, ti sento male qua da Milano. Ascolta Filippo, Zidane adesso è stato santificato da Florentino Perez, è diventato un genio, certo. Sta per rinnovare fino al 2020. A quanti soldi, scusa per curiosità? Beh, insomma, diciamo già lui aveva avuto un rialzo l'anno scorso. Adesso si parla qua di una cifra intorno, che può arrivare in doppia cifra. Questo si dice. In doppia insomma, cifra. Vediamo. Insomma, Allegri sì, ha rinnovato per una roba tipo 7,5-8. Insomma, i grandi allenatori costano quei soldi lì. Sì, poi, adesso vediamo. Insomma, adesso poi vediamo. Dovrebbe arrivare anche il rinnovo di Messi. Vediamo un po'. Insomma, qui siamo questo, questo è un altro tema. Ma volevo rimanere su Zidane. Sì, sai che ieri mi è venuto in mente un parallelo. Io ormai sto vaneggiando, però mi è venuto in mente un parallelo tra Zidane e Del Bosque. Sì. No, qua in Spagna si è stato fatto. Giuro che me lo sono inventato da solo, però. No, bravo, no, assolutamente. Io lo appoggio. Ci sono tanti tratti in comune. Diciamo la serenità, la calma, la capacità di mantenersi, carisma, un certo aplomb, carisma e la comunicazione, diciamo, sempre su un piano abbastanza alto, e anche l'amore da parte dei giocatori, insomma, la stima, un rapporto corretto con i giocatori. La cosa è che leggevo ieri, mi sembra che Zidane ha già 5 trofei, Del Bosque ha 27 col Madrid, lo raggiunge rapidamente se continuiamo così. In un anno. Sì, non, e poi dovrà andare a vincere il mondiale con la Francia. 15 mesi Zidane ha raccolto tutto questo. Senti, per chiudere, Messi Barcellona a vita, si dice questo? Ma ce l'hanno detto tante volte, adesso ieri sera l'ha detto la SER, altre volte l'avranno detto altri. E direi che ci siamo a occhio, ma noi abbiamo sempre detto che lui da qua non se ne sarebbe andato via mai, e il problema è che ovviamente era il Barcellona che si è seduto al tavolo con un coltello alla gola, e adesso vediamo, bisogna capire bene le cifre, che sono ovviamente imperiose, no? Perché visto che se no se ne va via gratis l'anno prossimo, cioè diciamo tra 6 mesi poteva negoziare gratis con chi gli pareva, per cui aveva tutta, diciamo, una trattativa di favore. E questo è chiaro. Esatto, a me rimarrebbe il rimpianto di Messi con un'altra maglia, cioè un po' todo il mondo, insomma, vedere il valore di Messi. Suning doveva provarci, portarlo all'Inter. Suning non penso neanche su Suning. No, però sai, la controprova di Messi con un'altra maglia poteva essere anche il momento, anagraficamente parlando, per un'altra dimensione. Grazie Filippo. 30 trofei in questi 12 anni, non sono pochi. Spagna. E con questo ci hanno un po' smaronato con tutti questi trofei. Adesso basta. Insomma. Cioè, sono 4 anni. Spero che adesso basta. Lasciate qualcosa agli altri. Già l'Europa League l'abbiamo lasciata. Dai. Ciao Filippo, a presto. Ciao. Ci fermiamo per la borsa 800 24 00 24. Poi mercatari, procuratori, chi va di qui e chi va di là. Tutti convocati. Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Dal 12 giugno il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ma certo, amico Dario dal Camion, che mi scrive un WhatsApp: vi aggiorno su Italia e Inghilterra, semifinale under 20. Purtroppo vi aggiorno con notizie non buonissime, perché l'Inghilterra si è appena portata in vantaggio 2-1, era passata l'Italia con Orsolini e poi ha subito questa rimonta al 78esimo della partita. Gol di Lookman e Inghilterra in vantaggio. Tornato Pierluigi Pardo, è arrivato Enrico da Siena e poi anche Sergio da Milano. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Dica. Intanto mi ha dato una brutta notizia, perché l'Under 20 è fortissima, allenata da un grandissimo giocatore, Evani. Comunque, niente, io volevo parlare del mercato del Milan e sì, nella fattispecie, siccome io vi ascolto tutti i giorni, quindi bravo, magari bravo, ci può dire che qualcuno ha detto in un modo, qualcun altro, io vi sento tutti i giorni. Bravo. Ecco, lei ha sempre detto che di questi compratori cinesi era scettico, e sì, questi non c'hanno il grano, e questi qui, e questi là, un salto nel vuoto. Sì. Allora, io fossi lei almeno, sì, ora direi mi sono sbagliato, perché questi stanno facendo un mercato. Guardi, io le leggo un titolo, aspetti, no, prego, le leggo un titolo, prego, le prego, leggo un titolo che oggi ho visto su, se non ricordo male, Repubblica, ma ce l'ho qui e quindi adesso vado a pescarlo. Allora, il titolo è questo, a pagina 52, Milan, i nuovi padroni sono come fantasmi, ma già spesi 86 milioni. Appunto, ma a noi tifosi del Milan, che ve ne frega di chi è il Milan? Ma che c'è? Ma no, c'è messo, il grano, no? Come no? Chi se ne frega? Sono come fantasmi, basta che arrivi il grano. Ascolti, se no, sono io che deve mettere il Milan, capisco, però insomma, non è che io non è che sono contento che il Milan abbia dei fantasmi facoltosi a foraggiarlo, Pierluigi. Il classico fantasma facoltoso. No, ma allora qui c'è da dire, assoluto, che poi sappiamo che Passone ha avuto un ruolo fondamentale, triangolando con l'America per avere le garanzie, ha messo la faccia, ha avuto un merito su questa vicenda clamoroso, cioè ha preso veramente in mano la situazione. Non è che ce le siamo inventate noi le difficoltà del closing, difficoltà che in parte erano dovute anche agli aspetti psicologici legittimi del cavaliere, che insomma, prima di privarsi di questo figlio che per lui è il Milan, ci ha pensato mille volte e sicuramente non ha accelerato, anche se razionalmente era la cosa migliore da fare. Quindi questo è il primo elemento. Il closing è stato lungo, è stato complicato, è stato difficile. E oggi mi sembra che sicuramente è sorprendente, cioè, non è per giustificare Genta, anch'io dico che non me l'aspettavo, ma aspettavo una partenza di campagna acquisti così forte. Credo che in qualche modo sia dovuta anche al fatto che Fassone si è reso conto subito, innanzitutto ha avuto tempo con Montella per poter progettare il futuro, certo. Cioè, la differenza fra Inter e Milan è che l'Inter oggi, ma ieri, oggi, questi giorni sta cominciando il suo percorso, interno, è no? Chiaro, il suo percorso è chiaro. Con Palletti lì si era già deciso lì, prima lì, da un mese, con calma, da un mese ne stanno parlando. L'allenatore era quello, Passone era lui, Montella era lui, e quindi le idee erano chiare. E ci si è resi conto subito che bisognava provare ad alimentare un po' di entusiasmo, che quindi l'elemento tempo diventava cruciale, fare degli acquisti in fretta, certo, ma vuol dire detto anche questo, c'erano le idee questo, chiare, no, adesso questo, Biglia, chapeau, Keita, vediamo, chapeau, senz'altro, poi resta il fatto che insomma la proprietà del Milan rimane ancora qualcosa di vago, non è diversa rispetto alla situazione dell'Inter, su questo non credo di bestemmiare detto in chiesa. Questo, detto questo, scusami, un club, questo l'ho detto mille volte, un grande club come il Milan non può non avere un futuro. E tutto sommato con un aspetto tecnico che sta sistemando, non mi sento di dire chi se ne frega di chi è il proprietario, ma se anche il proprietario non fosse quello giusto, ne arriva un altro in corsa, e nel senso che questo è talmente golosa la torta, vediamo, no? Ma certo, Carlo Pallavicino, ciao. Buongiorno a tutti. Bella palla. Senti, no, stiamo discutendo di avrà sentito questo discorso, no, che stavamo facendo sul Milan prima di che ne pensi? Io penso che secondo me l'entusiasmo dovrebbe essere in crescita costante, perché obiettivamente è arrivato il momento, è arrivato il momento del Milan, è arrivato il momento di calare l'asso, e quindi secondo me ci sono tutti i presupposti per vedere un mercato scoppiettante. Questa è la percezione che ho io, e peraltro pensavo prima anche la Roma stessa, cioè tutte le squadre quest'anno sembrano convergere, anche forse in virtù di questi cambi di panchine, di rinnovamenti, insomma sembra che questo possa rappresentare un mercato un po' quello, poi stile quello di due anni fa, dove, sì, dove ci fu una bella evoluzione. Ci fu una bella evoluzione, no? Poi se anche quelli di proprietari di Milan sono fantasmi, come titolo della Repubblica, mettono il grano, va bene lo stesso. Però non è che mi sento di dire che la situazione lì sia chiarissima. Però va bene così. Poi si parla di Diego Costa, è un discorso che facevamo prima, che è stato licenziato via SMS da Conte, pur sempre un giocatore che guadagna 12 milioni lordi di euro l'anno, e sono cifre per noi inavvicinabili, perché il gap con le inglesi non lo possiamo chiudere. Però vorrei una battuta sulla tua Fiorentina con voce di Pioli. Ho sempre desiderato tornare da allenatore, e quindi si è verificata questa occasione. Ringrazio la proprietà per avermi scelto, e quindi sono molto motivato e molto contento. Ho avuto delle situazioni aperte all'estero, che è una cosa che mi sarebbe interessata, ma per la Fiorentina valeva la pena rimanere in Italia. Chissà se si tiene il pezzo da 90, cioè Bernardeschi, sempre Pioli. La società si è mossa per tempo per offrire al giocatore, che è sicuramente un giocatore di talento, un rinnovo del contratto anche superiore a quelle che sono le possibilità nostre economiche. Adesso il giocatore dovrà decidere da farsi. Chiamerà? Sì, ma come chiamerò tutti i miei giocatori per conoscerli e per sentire le loro condizioni, e soprattutto la loro voglia e la loro felicità di rimanere con noi, perché c'è bisogno di tanto entusiasmo e tanta passione e soprattutto di tanta disponibilità. Ok, secondo me Pioli Fiorentina matrimonio perfetto, l'abbiamo detto, io parlo credo anche alcune volte. Bernardeschi che fa? Ma Bernardeschi credo che possa andare via, anche se non mi sorprenderebbe che proprio un colloquio con Pioli possa modificare delle situazioni in essere. Bernardeschi mi risulta nelle ultime ore addirittura stia valutando l'ipotesi di cambiare anche procuratore, il che sarebbe il terzo nella sua pur breve carriera, il che non è mai un segnale di stabilità e di idee chiare, ma per carità, ognuno è libero di scegliere e di decidere quello che per lui è più giusto. A proposito di Pioli, però, non posso non ricordare, essendo stato per più di 15 anni il suo agente, che se ne andò dalla Fiorentina in lacrime. Eravamo al box, a quei tempi il mercato si faceva al Forum di Assago, nel box della Fiorentina, con Luciano Luna e un altro dirigente viola, e Pioli non voleva lasciare la Fiorentina. Mi ricordo proprio che a un certo punto, quando gli fu comunicato che era stato venduto al Padova, lui proprio dette un pugno a questo cartongesso che divideva i box delle squadre e disse: no, io non mi muovo. E in realtà si mosse anche perché era a fine contratto. A quei tempi ancora non c'era lo svincolo totale, eravamo pre-Bosman. Questo lo dico perché generalmente quando si ascoltano certe dichiarazioni, come ha detto adesso Pioli, sembrano di facciata. Invece lui veramente... No, certo. Questo è bello. A Firenze era veramente... Non so, la chioccia di, per esempio, ha fatto la chioccia a Rui Costa, vivevano uno sopra l'altro, gli insegnava dove andare a portare i figli a scuola, piuttosto che tante altre cose, ed era molto molto inserito nella realtà fiorentina, dove peraltro perse anche un crociato in una partita di Coppa UEFA. Quindi devo dire, è un ritorno che forse è l'unico ritorno che può lenire il dispiacere per la grande occasione persa a San Siro, a Milano. Sicuro. Un attimo di pazienza, traffico. Carletto, stai con noi. Tutti convocati. Ferkam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Ferkam.com vi presenta. Pierluigi Pardo collegato, Carlo Pallavicino sempre con noi, fine del sogno degli azzurrini di Evani, terzo gol inglese all'88esimo, ancora Solanke che chiude il conto, quindi semifinale che si avvia ad una mesta conclusione per l'Italia che era passata in vantaggio. Sergio da Milano, ascoltatore, non voglio farlo aspettare ancora a lungo, magari ha da fare. Sergio, dica. Sì, salve. No, sono in macchina, quindi vi sto ascoltando. Va bene. No, volevo intervenire perché ho sentito prima quello che diceva Ciccio Graziani, sì, dove io non sono molto d'accordo. Su cosa? sul fatto di Donnarumma debba rimanere a Milano per un discorso di riconoscenza, secondo me ha tutto il diritto di provare ad andare a vincere qualcosa, anche perché secondo me nei prossimi anni lascerà le briciole alle altre, quindi cosa rimane al Milano a fare? Beh, cosa rimane a Milan a fare? Il Milan mi sembra stia facendo sul mercato le cose sul serio, e poi vale il discorso secondo cui Donnarumma può essere, insomma, il simbolo. Vabbè, della Donnarumma è nella situazione, per me, poi voglio sapere anche Carlo che ne pensa, premesso che poi ognuno fa quello che gli pare della vita, insomma, questo grazie a Dio la libertà è al cuore, non si comanda, però io credo che Donnarumma sia in una condizione ideale, perché si trova, anche se sicuramente le titubanze degli ultimi giorni qualcosa hanno minato nel rapporto con i tifosi, però si trova ancora, diciamo, della possibilità di essere considerato il simbolo della rinascita del Milan. Bravo Piero, è esatto. Giovanissimo, esatto. La società comunque sta facendo degli investimenti importanti, magari non sarà da scudetto già quest'anno, però tornerà a essere una protagonista, e insomma Donnarumma secondo me si può dare un paio d'anni di tempo per capire come si evolve. Io fossi in Donnarumma, visto anche che c'è questa simpatia per i colori rossoneri, non voglio parlare di riconoscenza, mi darei un paio d'anni di tempo. Poi è ovvio che se non ci fossero fra due anni le condizioni, ne avrà 20, no, di anni, e fa vent'anni pensi di andare a vincere. Però oggi come oggi io un'opportunità al Milan gliela darei. Mi verrebbe da dire che Milan e Donnarumma in questo momento sono nella stessa fase, cioè sì, sono in una fase di rinascita tutti e due, di nascita nel caso di Donnarumma, che è così giovane, di rinascita nel caso del Milan. Quindi no, ma anche sarei... perché aggiungo, io sono, guarda, parola per parola d'accordo con il mio amico, con il mio amichetto Pardo. Aggiungo che andare adesso a 18 anni a prendersi delle pressioni pazzesche al Real, al Manchester United, dove vuoi tu, può essere un ulteriore rischio. Carlo Pallavicino, fossi Mino Raiola che faresti? Ma io non posso pensare che Mino Raiola tutte queste cose non le pensi anche lui, perché al di là di tutto... Allora perché non firma, scusa? Evidentemente perché vuol tirare al massimo e non lo so, io credo che ci sia una logica sportiva, o perlomeno che ci debba essere una logica sportiva. Oggi come oggi non c'è una logica sportiva, come hai detto benissimo te, come ha detto benissimo Pierluigi, nell'andare via. Visto che sei al Milan, non è che sei alla squadra Y che è appena retrocessa in C2, quindi mi pare che sportivamente, economicamente sia una scelta talmente intelligente e logica per un portiere, poi che io credo che lo stesso Raiola non possa non pensare che l'immediato futuro di Donnarumma debba continuare ad essere il Milan. Sì, sono mille ragioni pro e pochissime contro, esatto. Quindi è una vicenda che non si capisce fino in fondo. Un'ultima cosa, Carletto, cosa farà la Roma con Monchi? Beh, lui è veramente un pezzo a 90. Io voglio dire che in Italia abbiamo avuto qualche anno fa un altro grande dirigente spagnolo che è stato Masià a Firenze, che ha veramente saputo creare per un brevissimo periodo di tempo, perché poi gli fu tolto qualunque potere gestionale, ha saputo creare insieme a Pradè un piccolo miracolo portando in maglia viola giocatori di grande valore e dando alla Fiorentina un gioco, una mentalità molto molto originale nella prima Fiorentina di Montella. Quindi io vorrei aprire ai direttori stranieri, perché ho l'impressione che a differenza di quello che noi pensiamo di essere sempre più scalzi, più svegli, più tutto il mondo, credo che gli stranieri siano, anche dal punto di vista dell'utilizzo della tecnologia, cioè di tutto quello che riguarda oggi lo scouting, un pochino più avanti, salvo ovviamente, non voglio generalizzare, rispetto a tanti nostri direttori che ancora oggi hanno una visione un pochino antiquata, ecco, si affidano molto a... Artigianale, bravo, meno male che mi correggi tutto, perfetto. Grazie Carlo. Grazie a voi, a presto. A presto, grazie Carlo Pallavicino. Ciao. Che ne pensi del mercato dei dirigenti stranieri, Pardo? Ci manca da seguire anche quello, facciamo un programma apposta. Beh, ma è importante. Importante, è importante. Sì, è più importante un dirigente televisivo o un artista? Boh, tutte e due, nel senso che magari un grande dirigente televisivo ha la possibilità di portare con sé dei grandi artisti. Senti, adesso è la stessa cosa, no? Ma questo vale per qualsiasi settore, vale per esempio per i giornali, per tutti i settori della vita. Quindi è ovvio che c'è anche un mercato di questo tipo. Monchi sicuramente è un fenomeno, sicuramente è un fuori classe. Diciamo che il retropensiero che si può fare vedendola invece come bicchiere mezzo vuoto è che siccome Monchi è un re nel trovare soluzioni alternative, questa scelta potrebbe essere stata in qualche modo anche legata a un periodo di spending review nella Roma. Cioè, prendo Monchi perché ho bisogno questo lo capiamo dal mercato, perché va bene la cessione di un big per le note ragioni, però se cominciano a venderne un paio, cominciano a venderne tre, allora cambiamo il tiro. Pier, ti saluto, ci sentiamo allora oggi, domani con Capuano, io non ci sarò. Domani Capuano, ci sentiamo domenica. Signor Capuano. Ciao Pierluigi, ciao. Allora, adesso ci fermiamo perché c'è il giornale radio naturalmente, poi però state con noi perché abbiamo un sacco di roba da raccontarvi. Innanzitutto Nicola Roggero sulla Golden Gala di Roma di questa sera, ci sono tantissime curiosità per la notte delle stelle dell'atletica a Roma. Voglio capire che sta succedendo in Cina sul fronte Inter, e credo interesserà anche a voi, e insomma ci addentriamo nella psiche di Djokovic. Ma Djokovic, che gli è successo? Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sul fintech, i nuovi sistemi di pagamento, le monete digitali e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, ricominciamo tutti ai vostri posti e andiamo. Convocati. Allora, la voce del Golden Gala, del Gran Gala dell'atletica italiana, 40.000 gli spettatori attesi all'Olimpico, ma non avevo grossi dubbi. La voce che la racconterà televisivamente per Sport è quella nostra amica di Nicola Roggero. Ciao Nicola. Buongiorno a tutti. Ciao, cosa ti aspetti? Domanda banale, ma cosa ti aspetti da questo salotto delle stelle? Allora, in assoluto io mi aspetto una straordinaria gara di giavellotto, che è una disciplina che ovviamente in Italia non ha lo stesso valore che ha in Finlandia, dove è considerata quasi a livello di una religione. Però questa sera ci sono praticamente tutti i migliori, soprattutto c'è questo roller tedesco che quest'anno è diventato il secondo di sempre con un lancio di 93 metri e rotti a Doha, che stava quasi fiocinando un cameraman che troppo imprudentemente si era fai le avvicinato. Raccomandazioni a quelli di Fox, esatto. Occhio quando tira questo. Mi aspetto una serie di ottime gare dal mezzo fondo della velocità, e nella velocità c'è l'attesa di tutti noi italiani per Filippo Torto, che è questo giovanissimo talento. Non diciamo ancora niente, perché avendo lui non ancora 19 anni e dovendo anche tra l'altro affrontare la maturità, è bene tenerlo più che mai tranquillo senza appesantirlo di aggettivi e paragoni pesanti. 19 anni che compirà martedì prossimo, ecco. Mondiale Under 20, vice campione mondiale Under 20 sui 100 metri. A proposito di Under 20, finito il sogno dell'Italia, 3-1 per l'Inghilterra nella semifinale in Corea del Sud, purtroppo. Bello che dica i miei modelli sono Berruto e Mennea, mi ispiro a loro, eccetera. Questa sera sarà la gara più bella della mia vita. Insomma, sono una dichiarazione belle, pulite. Perché è un ragazzo che studia, tra l'altro, studia non soltanto a scuola, dove va molto bene, studia perché il papà che lo allena è stato a sua volta un buon velocista. E lui ha citato Berruti e Mennea, che ovviamente per ragioni di età non ha mai visto neppure correre. Certo. Recentemente, però, ha proprio incontrato Livio Berruti ed è un ragazzo molto per bene. Non sembra neanche un velocista. I velocisti per solito sono molto istintivi, lui invece è estremamente riflessivo. Ripeto, non voglio dire niente perché abbiamo un grande talento, secondo me sarebbe sbagliato in questo momento fare dei paragoni che potrebbero diventare pesanti, potrebbero diventare un fardello, però teniamo d'occhio questo Filippo Torto perché sui 100 e ancora più sui 200, che è una gara che lui al momento non ha ancora preparato al meglio, potrebbe veramente fare delle cose tanto importanti. Poi Nicola, possiamo insomma un po' cinicamente dire che comunque quello della velocità rimane il regno dei Bolt, rimane il regno degli atleti di colore. Ma guarda, io sono molto daltonico, in generale anch'io, però perché alla fine quando correvano, faccio dei casi, Borzov e Mennea, non è che non ci fossero gli atleti caraibici, gli atleti afroamericani, c'erano e venivano dietro. Così come Lemaitre ha dimostrato che si può tranquillamente ottenere dei risultati importanti. L'ultimo Credo semplicemente che il mondo vada avanti e che allenandosi e avendo ovviamente il talento, i preparatori anglosassoni, dico sempre, quando parlano di un atleta, dicono sempre first of all mom and dad, cioè prima di tutto, certo, è ovviamente il talento naturale che si può sviluppare allenandosi seriamente. Non c'è nell'atletica in generale e ancora di più nello sport un settore, una disciplina che siano favorevoli a una certa etnia. Io credo che non sia questione di etnia, ma sia questione semplicemente di talento e naturalmente di serietà sul lavoro. Torto, secondo me, ha tutte e due le cose. Nell'attesa, occhio anche all'alto femminile dove c'è Alessia Trost. Sì, Alessia che fa il debutto stagionale, avrà dovuto correre a gareggiare a Eugene, ha avuto però un piccolo problema che la costretta a saltare Eugene. Questa sera c'è, è anche questa una gara dove ci sono tutte le migliori, perché c'è la campionessa olimpica Beitia, c'è la Kuchina, la russa, che può gareggiare insieme ad altri atleti russi grazie al fatto che ad alcuni di loro, mai coinvolti in vicenda di doping, è stata data la possibilità di gareggiare sostanzialmente senza una bandiera nazionale, cioè come atleti indipendenti. Sarà interessante vedere la condizione di Alessia, visto che quest'anno ha cambiato allenatore, si allena direttamente con Jimbo Tamberi sotto la guida del papà di Jimbo, che è Marco Tamberi. Io personalmente ho parlato ieri con Alessia per Roma, mi ha detto che è molto felice di questa nuova situazione, perché con i Tamberi ovviamente si diverte moltissimo e questo è già importante, perché si è evidentemente in pedana con il cuore e l'animo leggero. Quindi insomma vedremo a che punto è Alessia. Perdonami Nick, ma nell'attesa di sentirti stasera commentare su Fox questa sera il meeting verrà preso dalla Rai, non voglio prendermi delle Io disturberò lo stadio olimpico come speaker. Disturberai lo stadio olimpico? C'è qui il mio amico Bragaglia che commenterà per la Rai, posso anche dire cosa ho mangiato a pranzo, perché sono a pranzo che se mi interessa. No, però mi scappa. Non l'atleta, ecco. No, ma mi scappa la domanda sullo United, sul tuo United. Cosa sogni? Intanto quest'anno ha ricominciato a vincere. Perché, insomma, alla fine si è portato a casa dei trofei, anche se secondo me siamo ancora molto molto lontani dalla ricostruzione di una squadra veramente vincente, perché i trofei che ha vinto, con tutto il rispetto, sono trofei secondari. La Coppa di Lega nell'ambito inglese e ovviamente secondari l'Europa League, però era un obiettivo importante perché ridà al Manchester United la Champions. E poi vedremo quale sarà la campagna acquisti. Io da tifoso del Toro, se proprio il Toro deve cedere Belotti, mi augurerei che finisca allo United. Così ho Darmian e Belotti insieme, sarebbe un bel traguardo. Non male. Questa suggestione. Tanto la clausola, cioè 100 milioni per loro, che cosa vuoi che siano? Sì, beh, il Toro si rifà sette undicesimi di squadra, certo, ma per lo United hai visto il City cosa spende per delle scommesse, no? Perché in fondo sono degli all-in. In Inghilterra i soldi non mancano. Parlavamo prima di Diego Costa, licenziato per SMS da Conte, ma il giocatore è da 12 milioni l'anno, seppur lordi. Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, diciamo che accoppia il pranzo con la cena, 12 milioni di euro. Di cosa stiamo parlando? Ciao Nicola, grazie. Ciao. Buona giornata a tutti. Ciao, buon gol del gala. Allora, Giovanni da Brescia, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie della convocazione. Ma grazie a lei di aver risposto, come Bocelli ieri. Dica. Esatto, sì, ho sentito. Vorrei essere provocatore nei vostri confronti di esperti giornalisti. Pronto. Penso che vi faccia piacere. Io sono pronto, se no ci annoiamo. Allora, certo. Esatto, allora, tifoso milanista da una vita, quindi ho vissuto i tempi d'oro del Milan, Champions League e cose varie. In quei tempi mi sembra di ricordare che le squadre le facessero le società, quindi che i signori Gullit, Van Basten non avessero creato nessun tipo di problema al momento del rinnovo o quant'altro. Questo mi porta a ragionare che il signor Raiola, del quale non esprimo il concetto perché fa il suo lavoro, ha identificato con una frase quello che è il messaggio: voglio sapere dal Milan chi compra per decidere se Donnarumma giocherà in questa squadra. Io penso che un ricatto di questo tipo, essendo un tifoso milanista fino ai capelli, non si possa accettare, e che quindi il signor Raiola, speravo che voi giornalisti dicesse sì, questi signori ormai identificano come vengono composte le squadre di calcio, perché se Raiola decide no, Gigio tu vai a Manchester, Gigio che ha 18 anni, io ho giocato in Serie A pallavolo 18 anni, non sapevo neanche cosa fosse, sarei andato là. Quindi immagino che Raiola non meriti questo tipo di sa discorso. Da un certo punto di vista lei ha ragione, da un altro punto di vista è anche legittimo che chi cura l'interesse del giocatore, se volete rileggo il titolo di Repubblica, insomma, la proprietà del Milan sta spendendo bene e ha intenzioni serie. Sulla, al di là di Fassone che conosciamo bene, sulla struttura societaria del Milan, insomma, sono anche ancora, non parlo di fantasmi come Repubblica, ma ci sono ancora dei dubbi da dissipare. Detto questo, io sono d'accordo con lei, ma continuo a pensare che il contratto sia lì, i soldi ci siano reali, si tratta del Milan, non parlo di riconoscenza che non sporta il valore che può avere. Il discorso che farei anche nell'interesse del mio assistito sarebbe questo, cioè firmiamo sto contratto e poi tra due anni vediamo, avrà 20 anni Gigio Donnarumma tra due anni. Ripeto, al Milan sarebbe titolare, sarebbe l'idolo dei tifosi, sarebbe bandiera del nuovo corso, sarebbe tante cose. Da un'altra parte, dove magari lo strappagano, sarebbe il nuovo portiere cui si chiedono i miracoli e magari non è ancora pronto. Marco Barzaghi da Mediaset Premium, buongiorno Marco. Buon pomeriggio. Io ho bisogno degli aggiornamenti. Allora, come sta andando la missione cinese di Spalletti e Ausilio? Ma sta andando molto bene. Il big boss Jin Dongzhang, diciamo che ha chiarito le sue grandi ambizioni, che vuole in breve tempo riportare a vincere, ha chiarito quello che sarà il budget per il mercato, che sarà molto importante, di quasi 200 milioni, e quindi diciamo che tra poco Spalletti si rimbarcherà per l'Italia molto soddisfatto della scelta che ha fatto. Adesso in attesa che il mercato entri nel vivo, che l'Inter si sistemi nella prossima settimana, cedendo Perisic o barra altri due o tre giocatori per sistemare i conti, e poi partiranno gli operazione tecnica. Ecco, un discorso che facevamo ieri: i cinesi mettono i soldi, ne mettono tanti, però vogliono risultati immediati. Questo fa parte della loro mentalità, e questo dobbiamo mettercelo in testa. Se lo devo mettere in testa Spalletti e la dirigenza nerazzurra. Senti, Borsino Perisic, a che punto siamo secondo te? Ma da quello che mi risultava, lui ha deciso di andare al Manchester United, ha già un accordo trovato addirittura a fine marzo, quando Mourinho di persona andò nel ritiro della Croazia Zagabria, un ingaggio che gli ha promesso di 7 milioni netti a stagione, quindi vedo difficile riuscire a convincerlo a rimanere, anche perché il suo procuratore, con cui ci sono già stati degli attriti con la dirigenza dell'Inter, tale Ramadani, andrebbe poi a batter cassa per trattenere il giocatore, il che potrebbe creare anche dei problemi all'interno dello spogliatoio con Icardi, perché chiaramente adesso Perisic guadagna 3 milioni e ne vorrebbe almeno il doppio. Certo, questo il concetto è chiarissimo. Cosa chiederà Spalletti? Ma Spalletti penso che chiederà innanzitutto un grande lavoro, poi col fatto che non avrà le coppe, per me avrà anche la possibilità di lavorare bene e tanto, e non può assolutamente far peggio di quello che è stata questa stagione, quindi bene o male avrà meno pressioni rispetto a quelle che aveva a Roma, non avrà più il problema Totti, ma io sono abbastanza ottimista vedendo quello che anche... Io come ho detto prima, guarda Marco, come ho detto prima, sarà comunque importante l'arrivo non di un giocatore ma di un dirigente come Lelio Oriali. Ne parlavo prima con Graziani, dice: ma un accordo con la nazionale si trova, però Spalletti ha bisogno caratterialmente, per come lui, e anche dal punto di vista, insomma, delle strategie di un uomo come Lelio Oriali. Però da quello che mi risulta si è un po' arenato il tutto dopo l'arrivo di Sabatini e per me ci sono un po' di difficoltà. Adesso vedremo, anche perché con l'arrivo di Sabatini, che vorrebbe portarsi anche dei suoi collaboratori come Massara, iniziano a diventare un po' tanti dirigenti all'Inter. Quindi... sono più dei giocatori. E poi nei primi incontri con Oriali si era parlato di un suo ruolo come era all'inizio, ai tempi di Mourinho, ma anche con competenze sul mercato. Adesso cambierebbero un po' anche gli orizzonti di questa sua... collaborazione con l'Inter, però da quello che mi risulta è difficile in questo momento. Difficile. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie Marco Barzaghi. Allora, io adesso ci sdraiamo sul lettino dello psicanalista Vincenzo Martucci. Ciao Vincenzo. Ciao, buongiorno a voi. Allora, Djokovic, eterno discorso di Djokovic. Ieri schiantato, sculacciato, umiliato a Parigi da Thiem, che non è un fenomenissimo. Adesso ha ammesso, Agassi non c'entra niente come nuovo allenatore, sto male, non sono più io, non capisco che cos'ho, sto pensando molte cose da qualche mese, ma sto cercando di capire cosa è meglio per me. Ci sono stati molti cambiamenti nella mia squadra, ho una responsabilità verso il tennis, insomma un discorso strappalacrime da un uomo che non sa più chi è, un uomo in cerca di autore, tennisticamente parlando, ma forse anche umanamente parlando, Vincenzo. Sì, io l'ho detto, mi ripeto, però tanti telespettatori, audiospettatori magari non lo sanno, ma c'è un tragico precedente, tragico per il tennis, non ci sono stati morti, ma insomma c'è stata la morte sportiva di un altro grande tennista, Bjorn Borg, proprio come lui, cioè era Borg in quel momento era veramente il più forte, McEnroe tentava di arrivare al suo livello, ma se Borg avesse tenuto duro magari McEnroe non ce l'avrebbe fatta. Invece all'improvviso a 26 anni sparì dalla scena, proprio buttò via la racchetta, scappò, non ce la fece più. Era molto simile. Però Vincenzo era un personaggio comunque diverso, lo chiamavano l'orso, come ben ti ricorderai, era un personaggio in cui era difficile penetrare, eccetera, mentre Djokovic è sempre stato un estroverso e con le scenette, con le imitazioni è sempre stato quello che non ti aspetti possa avere una crisi di questo tipo. Ora io non voglio sfrugugliare argomenti personali o altre cose, però mi sembra una vicenda talmente strana che non riesco a trovare una spiegazione. Ma è pure semplicissima, se ci pensi un attimo è di una semplicità sconvolgente. Mettiamo conto che tu volessi diventare il presidente della Repubblica e che alla fine dopo mille sforzi ci riesci. il giorno dopo che sei diventato Presidente della Repubblica, che cosa devi ancora fare? Niente, non hai più obiettivi. Lui, questo ragazzo qui, non dimentichiamo che da quando era bambino ha chiesto a se stesso sempre il massimo, sì, è venuto certo, fuori da situazioni sì, tragiche sotto le bombe, sappiamo tutta la sua storia, sì, eccetera, sì, sì, non aveva soldi, quindi ha veramente fatto di tutto e ha ottenuto il massimo pensando sempre solo e soltanto al tennis. In più ha avuto la pressione di la Serbia, il piccolo paese odiato in qualche modo da tutti per tutto quello che è successo, con una cattiva nomea. Poi il numero uno del mondo, poi i tornei dello Slam, quei due terribili signori Federer e Nadal che non lasciavano spazio a nessuno, poi la terra rossa che lo bocciava, insomma, poi la gente che lo fischia ovunque va. Non dimentichiamo anche questo, cioè tu parli del Djokovic estroverso. Guarda che la gente non l'ha mai apprezzato veramente, ovunque vada è il meno amato, la gente applaude Del Potro, applaude Federer, applaude Nadal, applaude Dimitrov, applaude chiunque, ma è raro, lui si sforza, gli regala il cuore alla fine della partita, fa di tutto, ma in realtà la gente non lo percepisce perché gli suona un po', non voglio dire falso, ma insomma che non sia vero tutto questo suo essere estroverso. In realtà il ragazzo poi tutto questo estroversismo non ce l'ha, perché lui in realtà è un ragazzo molto molto serio, molto molto attento alle sue cose, molto molto concentrato, molto molto preciso. Quindi questo ragazzo all'improvviso è imploso. Tieni presente, presente che poi c'è stato anche il fattore familiare, sicuramente lì qualcos'altro è successo, cioè il suo figlio che arriva, la moglie è una persona molto intelligente che voleva realizzarsi nel lavoro, che si è sacrificata per lui, e in qualche modo noi sappiamo che le donne, che amiamo tutti tantissimo e non potremmo fare a meno delle donne, però in qualche modo poi te la fanno pagare, tra virgolette. Sì. E poi forse c'è stata anche una scappatella, questo. Vabbè, questo non che ne sappiamo. Però il fatto che abbiano fatto subito un secondo figlio ti fa pensare. Ha rimesso a posto le cose. Secondo te abbiamo la possibilità di rivederlo, di rivedere Djokovic, non fare la comparsa ma fare il grande protagonista, o lo dobbiamo considerare perso per strada? Guarda, la mia sensazione è che lui si sia completamente perso. Perché te lo dico? Perché secondo me non ha quel tennis alla McEnroe, alla Federer, ma anche alla Nadal che gli consenta di chiudere gli occhi e di giocare. Lui fa un gioco talmente atletico, talmente di intensità psicotecnica, tattica, che lui deve chiudere gli spazi dell'avversario, deve soffocare l'avversario, deve volere uccidere l'avversario per correre in quel modo, per comportarsi in quel modo. E quindi se non ha quella spinta dentro, non ce la fa. Secondo me questo è l'ultimo Djokovic che abbiamo visto. E d'altra parte lui è pago, ha avuto tantissimo, io credo. Poi chiaramente, come diceva quello famoso, i pronostici non li sbaglia solo chi non li fa. Certo. Allora fammi un pronostico secco: Murray, Wawrinka, Nadal, Thiem, semifinali. Col cervello, non col cuore. Dai. Col cervello Wawrinka, Nadal. Wawrinka, Nadal per la finale di Parigi vince? E secondo me vince Wawrinka. Hai usato il cervello, forse anche troppo. Però sei un grande Vincenzo Martucci. Ciao, grazie. A presto con Vincenzo Martucci. Chiudiamo questo programma ringraziando Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ciao a tutti e tutti convocati, torna domani alle 14 da questo scranno capuano. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.